9. Ascolta e controlla. Emma vuole dare ai nuovi studenti alcune informazioni sui corsi, sulla scuola e sulla città. Ha anche delle mappe della città e un libretto con molte notizie utili. Prima di scrivere il test d'ingresso, gli studenti devono riempire una scheda. Il pomeriggio uno dei professori accompagnerà gli studenti in città per conoscere meglio i posti più importanti.